Parte dell'ultima parte di Rock Legends, continuiamo ad ascoltare i brani del disco Daddy's Dead dei Rain. Come si chiamava questa canzone? Vai Marco. Questa canzone si chiamava 8 Bar. Ti eri addormentato, eh? Sì. No, ero ancora in estasi per l'ascolto del brano, perché con queste fantastiche cuffie che ci hanno dato grazie ai potenti mezzi della radio, esatto. Siamo assolutamente in paradiso. Sì. Dopo l'uscita di questo disco, quali sono gli impegni che attendono la vostra band per il futuro prossimo? Prossimo futuro abbiamo 3 concerti nel brevissimo, uno a Bologna il 20 novembre, uno a Massa Lombarda il 19 dicembre, l'ultimo il 26 dicembre ad Ascoli Piceno. Dopodiché, siccome in studio stiamo già slavoricchiando nella nostra sala prove la fossa ai nuovi brani, abbiamo una 15ina di preproduzioni, un po' imbastite, un po' bozze, eccetera, diciamo che il 2010 è pesantemente concentrato, visto che è anche il trentennale della band, a preparare quello che sarà il successore di questo disco. Quindi dovrà uscire il disco nell'ultima parte dell'anno 2010. Faremo la terza grande Rain Crew Convention, che è una festa che facciamo, è la terza volta che la facciamo, questa che viene la terza per presentare il disco, nel trentennale ci sta di brutto, e leggeremo la terza Miss Rain Crew, come in tutte le altre Rain Crew Convention, e faremo un gran casino. Poi chiaramente ci sarà un altro tour europeo come quello che abbiamo fatto a supporto di Dead is Dead, e probabilmente ci vogliamo spingere anche in America, però sai, da lì in molti sono tornati con le ossa rotte, quindi sì, grande, c'è da decidere ancora. Andiamo quello, con i piedini di piombo, quello è per l'estate del 2011, vedremo. Il brano che ascolteremo ora adesso è una canzone un po' autocelebrativa, si chiama Rain Arise. Rain arise, rain arise, we go. Every Noi ragazzi siamo addirittura d'arrivo, a voi ricordo i contatti per richiedere le vostre rock legends preferite, per le vostre segnalazioni, scrivete l'indirizzo email jeanluc76m@yahoo.it. Ricordo il sito www.radiorcs.it per info su Radio RCS, su Rock Legends. Un grazie a Rain per la partecipazione, un auguro di pronto ritorno per il futuro, a voi la parola per i contatti web ed email, per info sul CD ed un calendario di live di prossima programmazione. Allora, intanto grazie a te e a tutti gli ascoltatori di questa fantastica radio. Il nostro sito web è raincrew.com. Come dicevo prima, su YouTube trovate un canale apposta per i Rain che si chiama Rain Crash Tube, e il MySpace, dove potete addarci quant'altro, si chiama myspace.com/raincrew1980. Okay. Concerti li ho già detti prima, se Marco vuoi dire qualcosina siamo qua in tua attesa. Magari le ripetiamo magari i concerti. Sì, li ripetiamo. Sì, allora i prossimi concerti appunto abbiamo il 20 novembre al Blogos di Casalecchio di Reno a Bologna. Poi avremo Casalecchio di Reno. Casalecchio di Reno, beh sì, a Bologna, c'è l'Ash di Bolognese, no? E poi dopo abbiamo il 19 di dicembre a Massa Lombarda, vicino Imola, giusto Amos? No, Massa Lombarda è provincia di Ravenna, c'è la piadina romagnola. Hai ragione. Vicino agli amici Small Jackets che salutiamo. E poi dopo il 26 di dicembre per Santo Stefano, che non ci sapevo mai mancare niente, siamo ad Ascoli Piceno da amici a suonare al... Sea Lounge di Ascoli Piceno, bellissimo pub in centro, ex Birrodotto. Ex Birrodotto, perfetto, vedi che mi ricordo. Bravo. Ti ringraziamo moltissimo per la possibilità che ci hai dato. Grande Jean-Luc, grazie veramente. Grazie veramente, grazie, è stato un sempre piacerone. Veramente. E poi so, cosa dico? Forza Verona, forza forza Chievo, cosa devo dire? Non si può. Rock and roll, diciamo. Rock and roll, sì, sicuramente. Dai, rock and roll. Brano di chiusura di questa puntata. Ma non di chiuso, un brano un po' insolito che rimane magari sempre lì tra le pieghe del CD, magari dal vivo non abbiamo mai tempo di farlo, stavolta ve lo voglio sbattere in faccia proprio alla fine. Si chiama The Reason. Gianluca e Reni vi salutano, noi ci risentiamo venerdì prossimo. Ciao ciao ciao. Don't tell.